Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Eccoci qui, buonasera, sono le 17.08, bentrovati da Deborah Rosciani a Focus Economia per fare il punto della giornata economico-finanziaria. Anche stasera abbiamo diversi argomenti, tutti molto importanti, e naturalmente non mancheremo soprattutto di monitorare quella che è stata la giornata di borsa. È stata una giornata, potremmo definirla incerta, ambivalente, sono pesate delle scadenze tecniche sui listini finanziari europei. Oggi è stata la cosiddetta giornata delle tre streghe perché sono andate a scadenza opzioni, futures e derivati. Questo ha incrementato la volatilità sul mercato, ma naturalmente anche l'attesa per la definitiva schiarita sul fronte irlandese ha inciso oggi sull'umore e sull'atteggiamento degli investitori. E poi ci sono state anche delle dichiarazioni del numero uno della Banca Centrale Americana, Bernanke, che ha difeso in maniera molto forte la sua recente manovra, quella di riversare sul mercato 600 miliardi di dollari con un'operazione enorme di riacquisto di titoli di Stato americani, una manovra che è stata contestata da più fronti perché ovviamente si teme che possa creare nel giro non di immediatezza, in sostanza, ma di medio termine, una fiammata inflazionistica che forse anche l'economia potrebbe reggere a fatica. Ma oggi appunto Bernanke è tornato a difendere questa manovra, lo ha fatto peraltro intervenendo ad un convegno a Francoforte. Ma non sarà solamente questo il tema di cui parleremo, perché oggi sul mercato è inciso anche un'altra iniziativa che è arrivata dalla Cina, che condiziona sempre di più i mercati internazionali. Ormai un altro grande tema del quale stiamo discutendo, il riequilibrio economico mondiale. La Cina oggi ha deciso di introdurre una nuova stretta monetaria, perché là in Cina hanno un problema completamente opposto al nostro: crescono troppo, l'economia è surriscaldata, lo si vede anche dalla crescita dei prezzi appunto, e quindi per frenare l'inflazione oggi la Cina è dovuta intervenire. Anche questo ha inciso oggi sulle contrattazioni, poi ne parleremo diffusamente soprattutto nella seconda parte di Focus Economia. La prima parte invece la dedicheremo al via libera che la Camera ha dato alla legge di stabilità. Avete sentito anche nel giornale radio condotto da Alessio Maurizi, misure per 5,7 miliardi. D'altronde il Presidente della Repubblica Napolitano non sente ragioni. La manovra, a prescindere dalle schermaglie, che sono anche qualcosa di più che schermaglie politiche, deve essere approvata al più presto entro i primi giorni di dicembre. Dopodiché appunto si vedrà che cosa succederà sul fronte politico, se andare alla crisi di governo o meno, andare al voto anticipato. Per quello che riguarda la legge di stabilità, tra l'altro, le principali misure contenute ve le abbiamo anche abbastanza raccontate in questi giorni. Oggi noi faremo un approfondimento su quella che è stata l'enorme polemica, anche di questa si è parlato nel giornale radio, sul taglio ai fondi del 5 per 1000, 100 milioni l'anno previsti per questa manovra, mentre l'anno scorso erano stati stanziati 400 milioni. Il terzo settore si è sollevato prepotentemente, vedremo appunto se ci sarà un dietrofront rispetto a questa misura. E questo ed altro questa sera a Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Tra l'altro so che lo volete già sapere, anche se entro 20 minuti vi racconteremo come ha chiuso la giornata di borsa. Milano si accinge a chiudere la seduta in netto miglioramento rispetto a come stava andando poco fa. Il calo adesso del FTSE MIB è dello 0,4%. Adesso le altre notizie in breve. A New York cominciamo con l'apertura del prezzo del petrolio a $81,19 al barile, un po' in ridimensionamento rispetto alle tendenze recenti. L'oro poco mosso a $1,352,10 l'oncia. Se l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare in tempi rapidi definisce i parametri di localizzazione, nel secondo semestre 2011 potremmo presentare la richiesta di certificazione dei siti. E quanto ha dichiarato oggi Giancarlo Aquilanti, capo della Task Force Nucleare di Enel, parlando a margine di un convegno sui costi del non fare. In merito ai possibili luoghi che potrebbero venire scelti dal consorzio Enel ed EF, Aquilanti ha spiegato come sia chiaro che i siti attuali presentano certe caratteristiche tecniche come la prossimità al Po e alla rete elettrica, anche se oggi non si può dire un sì o un no definitivo sull'ipotetica candidatura di un sito. E andiamo alle numerose dichiarazioni che oggi ha rilasciato il presidente della Banca Centrale Americana Ben Bernanke. Lo ha fatto sia nel corso di un convegno a Francoforte europeo, poi altre dichiarazioni erano state rilasciate, ma a volte il presidente della Fed lo fa diffondendo semplicemente dei comunicati. Altre dichiarazioni appunto le aveva rilasciate anche a Los Angeles. Se ne cominciamo con queste: l'elevato tasso di disoccupazione negli Stati Uniti minaccia la ripresa economica. Bernanke, affermando questo, ha detto di non escludere la possibilità che la disoccupazione possa aumentare ulteriormente nel breve termine. E anche da Los Angeles ha difeso la sua manovra da 600 miliardi di cui parlavamo poco fa. La politica della Fed è il modo migliore, ha detto, per sostenere il dollaro. Bernanke ha sottolineato come le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve non sono responsabili per il flusso di capitali verso le economie emergenti. Le dichiarazioni che invece sono arrivate da Francoforte: l'impatto del nuovo ciclo di quantitative easing con cui la Fed stampa moneta per acquistare altri 600 miliardi di dollari di titoli di Stato sarà un impatto significativo. Questo è quanto ha detto appunto Bernanke a questa tavola rotonda citata, che si è svolta oggi a Francoforte con i responsabili della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Peraltro, come vi anticipavo, su questi temi torneremo nella seconda parte di Focus Economia, facendovi ascoltare direttamente le parole di Bernanke, ma anche le parole del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Strauss-Kahn. Altra dichiarazione di Bernanke: l'elevato deficit commerciale degli Stati Uniti è dovuto anche al comportamento di altri paesi, con paesi appunto con alto deficit che devono rilanciare il risparmio interno. Cioè, Bernanke ha detto che appunto questo elevato deficit commerciale degli Stati Uniti è dovuto anche al comportamento di altri paesi, non nascondendosi tuttavia che i paesi con alto deficit, proprio come gli Stati Uniti, devono rilanciare il risparmio interno. Avere un dollaro forte è molto importante, ha detto invece il presidente della Banca Centrale Europea Trichet durante questa tavola rotonda. E invece le dichiarazioni di Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale: la disoccupazione dell'Unione Europea è cronicamente alta, con immensi costi umani e il rischio molto reale di una generazione perduta, distante dal mercato del lavoro e marginalizzata dalla società. A dirlo appunto Strauss-Kahn. Tra l'altro il direttore generale del Fondo Monetario ha anche affermato che l'Europa sta combattendo una battaglia demografica che si appresta a perdere. Per rilanciare la crescita sarebbe utile un approccio meno restrittivo sull'immigrazione. Prima di andare alle notizie italiane, ancora due dichiarazioni di Dominique Strauss-Kahn, sempre da Francoforte: le istituzioni finanziarie, specie quelle europee, devono avere la capacità di agire in modo deciso sulle banche in difficoltà e poi riparare il settore finanziario con banche che abbiano adeguato capitale per sostenere la crescita deve sicuramente essere la priorità delle riforme in Europa. Andiamo alle notizie italiane. Come vi dicevo, cominciamo con gli ordinativi all'industria e alcune statistiche dell'Istat che sono state diffuse oggi. Gli ordinativi all'industria appunto hanno registrato a settembre un calo dell'1,2% rispetto ad agosto, mentre sono aumentati del 17,9% rispetto a settembre 2009. Lo ha comunicato l'Istat, aggiungendo che sul dato mensile pesa la discesa segnata nel mercato estero. E ad ottobre invece le nostre esportazioni verso i paesi extraeuropei sono aumentate del 21,9%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 32%, quindi il disavanzo commerciale è ancora abbastanza importante. L'Istat ha aggiunto appunto che il saldo risulta in deficit per circa 1 miliardo di euro e quindi in peggioramento rispetto all'avanzo segnato nell'ottobre del 2009, quando appunto questo avanzo ammontava a 76 milioni di euro. È diminuita di 43 euro la spesa mensile delle famiglie italiane nel 2009, con un calo percentuale dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Lo si legge nell'annuario 2010 dell'Istat, in cui si sottolinea che il calo è stato alquanto significativo. Tirando la cinghia, la spesa media mensile è ammontata a 2.442 euro, appunto 43 euro in meno rispetto al 2008. Poiché tale dato, si legge nell'annuario Istat, incorpora sia la dinamica inflazionistica più 0,8% che la diminuzione del valore del fitto figurativo meno 1,1%, la riduzione in termini reali appare appunto alquanto significativa. E nel 2009 in Italia l'occupazione è diminuita per la prima volta dopo 14 anni di crescita. Il numero di occupati era pari a 23 milioni e 25 mila, in calo di 380 mila unità rispetto all'anno precedente. Emerge anche questo dato dall'annuario Istat, in cui si evidenzia che l'andamento negativo ha caratterizzato tutto il corso del 2009, con un peggioramento negli ultimi 6 mesi. E ancora, nella media del 2009, 300.000 occupati sono stati coinvolti dalla cassa integrazione, un valore 4 volte superiore rispetto a quello registrato l'anno precedente. Anche questo dato è contenuto nell'annuario statistico Istat, in cui viene evidenziato il massiccio ricorso, soprattutto nel settore industriale, a tutti i generi di cassa, ordinaria, straordinaria ed in deroga. Ad essere coinvolti dalla cassa integrazione sono stati principalmente i dipendenti delle regioni settentrionali, quelli delle imprese con più di 50 dipendenti e gli occupati delle classi di età centrali. Infine, sono più di 12 milioni gli internettiani italiani che si collegano alla rete. Per la maggior parte sono concentrati nel nord-ovest e, a sorpresa, nel mezzogiorno, che batte il centro e il nord-est. Anche questo risulta dal rapporto Istat, che dice anche che l'auto è irrinunciabile per le famiglie italiane. Solo l'11% di queste va al lavoro a piedi. Ancora un paio di notizie prima del primo approfondimento dedicato alla finanziaria. C'è stata oggi una polemica, una botta e risposta a distanza fra la leader della CGIL, il nuovo segretario generale della CGIL Susanna Camusso, e il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari, perché Susanna Camusso, intervenendo ad un convegno a Milano, ha detto che al nord la criminalità organizzata è presente ed infiltrata nelle imprese, anche perché il sistema bancario non sempre ha fatto fronte alle necessità degli investimenti nelle imprese. Non ha fatto mancare la sua immediata risposta appunto l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che per bocca del presidente Giuseppe Mussari ha detto: la stima per la persona e per il ruolo che ricopre sono fuori discussione, ma su quello che ha detto oggi Susanna Camusso non sono assolutamente d'accordo. Poi vi darò lettura appunto un po' più dettagliata rispetto a questo scambio a distanza di opinioni piuttosto acceso. Andiamo al primo approfondimento di oggi, la manovra alla legge di stabilità. Allora, come avete sentito, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio, oggi la Camera ha dato il via libera alla legge di stabilità. Il testo è passato con 303 sì, 250 no e 2 astenuti, e ora si va al Senato. Abbiamo già dato in questi giorni alcuni approfondimenti rispetto alle misure più importanti che questa legge quest'anno prevede. Per esempio, in questi giorni Simone Spezia si è occupato dell'eco bonus, l'intervento per riqualificare le nostre abitazioni, che prevede sgravi fiscali per il 55%, gli interventi appunto di riqualificazione energetica degli edifici e delle abitazioni. Inizialmente questo provvedimento era stato cancellato, già scadeva quest'anno, adesso è stato ripristinato, ma con un cambiamento di regole, perché adesso l'agevolazione potrà essere usata fino al 31 dicembre del prossimo anno, ma sarà spalmata su 10 anni e non più su 5. Io peraltro vi anticipo già che di questo argomento lunedì prossimo ci occuperemo a Salvadanaio. Fra le modifiche chieste dal relatore della manovra. Ha trovato spazio anche il finanziamento per gli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica, ma io non voglio darvi altre anticipazioni perché abbiamo la nostra scheda su questa manovra. Vale quasi 6 miliardi di euro la manovra uscita dall'aula di Montecitorio. A tanto, infatti, ammonta il valore complessivo degli interventi di spesa previsti per il 2011. 1,5 miliardi di euro sarà utilizzato per gli ammortizzatori sociali e principalmente per finanziare la cassa integrazione ordinaria e quella in deroga. La manovra prevede poi la proroga al 2011 della detassazione al 10% dei premi in busta paga legati alla produttività. Una misura che per il Tesoro dovrebbe comportare 850 milioni di minori introiti. Vale 1 miliardo l'assegno aggiuntivo staccato all'università, mentre a scuole e atenei privati vanno 270 milioni. Alle missioni militari internazionali sono assegnati 750 milioni di euro. La dote per regioni e comuni ammonta invece a circa 1 miliardo di euro. Per il trasporto pubblico locale sono stati infatti stanziati 425 milioni di euro. 344 milioni arriveranno a titolo di rimborso ICI, mentre i vincoli alla spesa degli enti locali, previsti dal patto interno di stabilità, sono stati alleggeriti di 470 milioni. Salvo anche per il 2011 il bonus fiscale del 55% sulle ristrutturazioni verdi degli edifici, ma la detrazione verrà spalmata su 10 anni, anziché su 5, come avviene adesso. Ha poi scatenato le proteste del mondo del volontariato la prospettiva di un drastico taglio alle risorse del 5 per 1000, che scenderebbero da 400 a 100 milioni di euro, anche se non è escluso che i finanziamenti vengano ripristinati già nel passaggio della manovra in Senato. Da dove arriveranno le risorse per finanziare i vari interventi? Per quasi la metà dalla vendita delle frequenze TV liberate dal passaggio al digitale terrestre, un'operazione che dovrebbe fruttare 2,5 miliardi di euro. Quasi 1 miliardo di euro verrà raccolto con giochi e scommesse, e altri fondi dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione fiscale. E intanto il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, anche sbloccato nella riunione di ieri, rinviata più volte, dunque molto attesa, risorse per opere pubbliche per 21 miliardi di euro. Fra le infrastrutture scelte, il terzo valico ferroviario del Giovi, l'avvio della galleria ferroviaria del valico del Brennero, il Mose di Venezia, l'autostrada fra Roma e Latina. Per il Sud ci sono solamente 240 milioni, quasi tutti per la Puglia. Sentiamo su questo quanto ha dichiarato al microfono della nostra Valeria De Rosa il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Sicilia, Salvo Ferlito. Sono veramente sgomento, sono veramente allibito pensare che in una, come dire, suddivisione di un fondo così grande, perché 21 miliardi di euro sono una cifra enorme, non è, cioè, che alla Sicilia non vada neppure un euro in questa fase, seppur con tutte le, come dire, le promesse che possono arrivare, che possono venire domani, ma noi abbiamo dei bisogni oggi, subito. C'è uno studio che è stato fatto, dove si spendono milioni di euro all'anno in più proprio per la mancanza delle infrastrutture, cioè di costi che devono sostenere le aziende, le imprese, e non solo quelle di costruzione, chiaramente, perché il manifatturiero, quelle di commercio e quant'altro spendono tanti milioni all'anno, perché per esempio la velocità di percorrenza media in alcune province è proprio bassissima, di 15-20 chilometri orari, per cui immagini che danno che si fa a tutta l'economia e non solo quella siciliana, atteso che la Sicilia, mi pare di ricordare, faccia parte, insomma, dell'Italia. Quindi non può essere il governo nazionale essere così miope, così sordo alle richieste. Io purtroppo a questo punto devo pensare che fanno scontare a noi cittadini, a noi imprenditori, la battaglia politica che stanno conducendo i vari leader, per i quali noi sinceramente cerchiamo di essere equidistanti. A noi ci interessano dei bravi amministratori e non intendiamo far politica partitica, ma politica, voglio dire, in senso lato, politica significa fare le cose, quelle cose giuste, fare gli investimenti nel posto dove servono. Non è possibile che io da Catania per arrivare a Palermo debba impiegare 5 ore con la ferrovia. Allora io non mi sento più, se era possibile mi sarei dimesso stamattina da cittadino italiano, perché non è possibile una cosa del genere, questa sperequazione. A questo punto forse, immagino io, traballi anche il ponte sullo stretto. Eh sì, è probabile, a questo punto mi chiedo, è una grande opera, ma non so, a questo punto, visto che insomma manca l'essenziale, mi chiedo anche se questa priorità a questo punto sia, non lo so, sia da rispettare. Non so più che dire, perché è ovvio che ci sono delle priorità che vengono prima dal ponte. Io sono convinto che il momento sia gravissimo, perché questi tre elementi che messi insieme ritengo che dal dopoguerra non si siano mai verificati, che è la crisi infrastrutturale, la crisi economica e la crisi politica. Oggi secondo me la irresponsabilità politica, questa litigiosità politica, cioè non ha più senso manco stare qui a investire, la situazione è drammatica. La regione ha sospeso i pagamenti, ha ripreso proprio perché non ha fondi, ha ripreso ieri a pagare e ci dice il governatore: io sto aspettando, sto anticipando, però le banche più di tanto non mi anticipo, però sto anticipando sui fondi FAS. Questi fondi FAS che diventano una barzelletta, diventano l'agenda metropolitana, hanno messo in ginocchio l'intera economia, perché forse con questa speranza si è andata avanti, però mi pare che sta rimanendo solo ed esclusivamente una speranza che difficilmente sarà attuata. La delibera è di ieri, quindi immagino che non abbiate avuto ancora il tempo di fare un po' il punto della situazione, però penso che forse anche con ANCE Nazionale prenderete delle contromisure e in qualche modo farete delle richieste. Sicuramente, giorno 1 è convocata questa grande manifestazione a Roma, seppur garbata, in maniera insomma fatta, come si dice, ad ANCE, a Confindustria, però faremo una protesta forte, vibrata, giorno 1, e quindi non mancheremo sicuramente di rimarcare questo punto assieme al nostro Presidente Nazionale, ma alla luce insomma di quello che stiamo discutendo, ritengo che anche l'ANCE Nazionale possa fare ben poco. Da quello che ci viene riferito il Ministro Tremonti, pare che abbia riferito al Presidente Buzzetti, dice: se io dovessi pagare tutti i debiti che ci sono nei confronti delle imprese, lo Stato può chiudere. Quindi ne deduce la logica conseguenza che lo Stato magari non chiude, però chiuderanno molte aziende, perché è chiaro che non essendo pagati non si può tirare avanti. E insomma, queste le prese di posizioni molto rigide del presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili della Sicilia. Noi peraltro, a proposito di tutte le decisioni della manovra di stabilità, della legge di stabilità, non abbiamo ancora terminato il nostro approfondimento, perché fra un po' ci occuperemo di terzo settore nella giornata in cui la borsa si avvia a chiudere in calo, ma un calo nettamente ridimensionato rispetto a come stava andando ad un certo punto della giornata, con Milano che è arrivata a scivolare dell'1,35%, adesso perde lo 0,50%, proprio vicinissima alla chiusura, mentre addirittura sul finale Francoforte sta chiudendo positivamente più 0,10, e Wall Street è molto tiepida oggi: Dow Jones meno 0,12, Nasdaq meno 0,17%. Andiamo in pausa, ci sentiamo tra pochissimo. Sono le 17.36, ancora buonasera da Deborah Rosciani questa sera al timone di Focus Economia. Allora, precisiamo una cosa, perché qua veramente ci sono molti ascoltatori accaniti di borsa che me ne stanno dicendo di tutti i colori, perché ho detto in apertura che oggi per una serie di scadenze tecniche la borsa anche aveva un po' accentuato e il suo ribasso e la sua volatilità, e ho parlato della giornata delle tre streghe, e non è oggi, avete ragione, a fine dicembre, perché è ogni tre mesi, e così mi sono avventurata, mi è uscita dalla bocca. Pazienza, adesso cancellatela, ci sono delle scadenze ma non ci sono le scadenze sugli indici, quindi ne manca una all'appello di scadenza tecnica, ci sono solamente quelle sui futures appunto ed altri derivati. Comunque abbiate pazienza, andiamo invece a parlare dell'altro tema che vi avevo preannunciato prima, parlando proprio del via libera da parte della Camera la legge di stabilità. Come sapete c'è stata questa vigorosissima presa di posizione del cosiddetto terzo settore, del no profit, perché in sostanza la manovra ha così deciso per un forte taglio ai fondi per il 5 per 1000, 100 milioni, mentre l'anno scorso erano stati stanziati 400 milioni. Allora, la presa di posizione, come vi dicevo, è stata molto vigorosa, tanto che qualcuno nel pomeriggio anche aveva parlato, ci sono state delle indiscrezioni su una possibile marcia indietro da parte del governo su questo, non si sa ancora niente a questo proposito. Di fatto faremo un punto della situazione con il nostro nostro collega del Sole 24 Ore, Elio Silva. Elio, ciao, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, lo descrivevi molto bene questo meccanismo delle 5 per 1000 oggi su questo pezzo sul sito del Sole 24 Ore. È il principale esempio di sussidiarietà fiscale esistente nel nostro paese e vigente. Non è mai andato a regime perché è dal 2006 che in sostanza viaggia in, come dire, in una condizione di transitorietà, e in ogni caso comunque è sempre andato avanti. Quest'anno appunto si volevano ridurre notevolmente le risorse per il no profit, però insomma qualcuno, a parte il fatto della coperta che era stata ridimensionata notevolmente, si sono scatenate le proteste anche per il fatto che non era proprio esattamente lo Stato che tirava fuori le risorse per questo settore, ma lo Stato funge talmente solo banalmente da intermediario di risorse che vengono erogate direttamente dai contribuenti che nessuno capisce perché effettivamente ci fosse stato questo taglio, insomma. Ma hai detto bene, il 5 per 1000 è noto a tutti praticamente perché ha incontrato un grosso successo. Sono quasi 15 milioni i contribuenti che in dichiarazione dei redditi hanno optato, come si dice in gergo tecnico, cioè hanno espresso la propria preferenza. E questo è proprio il maggior punto a favore di questo strumento, cioè è uno strumento di cosiddetta sussidiarietà fiscale perché consente al cittadino di stabilire pro quota, appunto lo 0,5 per 1000 della propria IRPEF, di stabilire a chi mandare questa somma. E come sapete, perché poi ne abbiamo dato conto negli anni, sono sempre state largamente premiate le organizzazioni di volontariato, ma anche la ricerca scientifica e quella sanitaria. Il punto è però che questa legge non ha mai trovato una cosiddetta stabilizzazione, o quindi un assetto definitivo. Di anno in anno va rifinanziata, e quest'anno, viste un po' le esigenze di finanza pubblica, evidentemente si era pensato di ridurre questa dote dai 400 milioni dell'anno scorso a soli 100 milioni, che però, se così fosse, significherebbe, dando per scontato un importo di preferenze almeno pari a quello degli anni passati, ridurre nei fatti il 5 per 1000 all'1,25%. Per 1000, il che ovviamente non è nella volontà né di chi aveva promosso questa norma nel 2006, che è l'attuale ministro dell'economia Tremonti, né della maggioranza né tantomeno dell'opposizione. Quindi, insomma. E certo, tra l'altro allora ieri c'è stata questa nota congiunta di tutte le principali organizzazioni no profit di secondo livello, tu citi nel tuo pezzo di oggi, Elio, che cosa vuol dire il no profit di secondo livello? Sì, sono enti che riuniscono altre sigle, spesso okay. Siccome queste associazioni una sorta, hanno diciamo, delle rappresentanti di tutte le realtà. Sì, perché è un mondo molto variegato, una galassia di oltre 300.000 organizzazioni, e certamente c'è l'esigenza di fare dei coordinamenti, di riunirsi. Guarda, i fatti di oggi sono uno buono e uno cattivo. Se vuoi parto da quello cattivo. Partiamo da quello cattivo, così almeno per la buona notizia ci risolleva il morale. La cattiva notizia è che comunque nel testo uscito da Montecitorio, quindi nel disegno di legge di stabilità così come votato questa mattina, resta il mini tetto a 100 milioni, che comporterebbe le conseguenze che ho detto. La buona notizia però è che questa mattina il governo ha accolto un ordine del giorno proposto da un deputato del PD, Luigi Bobba, e per voce del sottosegretario all'economia Casero ha affermato in sostanza che è essenziale lo strumento del 5 per 1000, che anche il ministro Tremonti e tutta la maggioranza è convinto della sua importanza, e che quindi il governo si impegna a reperire le ulteriori risorse in futuro. E quindi insomma ne continueremo ancora a parlare. Elio, un altro aspetto molto interessante che è sempre stato sollevato da quando questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento, e lo ricordavamo dal 2006 se non sbaglio, il fatto che pur essendo una dimostrazione di scelte precise da parte dei nostri contribuenti che vogliono supportare, anche se non lo fanno direttamente ma indirettamente con la dichiarazione dei redditi, il terzo settore, quindi il no profit, le onlus, faccio per far capire anche qualche ascoltatore che sta un po' contestando che stiamo trattando questo argomento, Emergency, Medici Senza Frontiere, Greenpeace, per citare i più noti, le organizzazioni che si occupano di ricerca nel settore oncologico, quindi questi istituti aiutiamo con questo meccanismo, con questo sistema. Quello che volevo dire appunto è che pur essendo stato uno strumento che non ha mai avuto un'organizzazione situazione fissa, stabile, ma sempre transitoria, un altro elemento di transitorietà è stato il meccanismo con cui poi le risorse raccolte ogni anno vengono devolute a chi ne ha diritto, perché ancora oggi stiamo distribuendo risorse teoricamente raccolte da almeno 2-3 anni, Elio? Sì, sono in distribuzione i fondi del 2008 e quindi il ritardo medio è sempre di un paio d'anni. All'inizio perché l'Agenzia delle Entrate ha dovuto creare il database, ovviamente, poi di anno in anno il Parlamento ha pensato bene di cambiare sempre la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari, per cui noi per ciascuna singola annualità abbiamo delle casistiche di ONLUS che a volte possono variare, il caso classico delle sportive dilettantistiche che sono entrate, poi uscite, poi rientrate. Insomma, c'è stato abbastanza giri di valzer su questa misura. E considerati poi i ritardi della macchina amministrativa, anche di un iter di restituzione che non è semplicissimo, andiamo sempre verso i 24 mesi. Il problema è che poi queste organizzazioni, una volta che hanno avviato dei progetti o programmato delle attività, effettivamente non possono a cuor leggero sospenderle o decidere di cancellarle. Per cui, diciamo, spesso è molto più facile intervenire così sulla carta con un tratto di penna che non poi decidere di tagliare l'assistenza. Poi saranno sempre delle grandi banalità quelle che diciamo, ma molto spesso queste organizzazioni si sostituiscono così largamente al settore pubblico che non riesce ad intervenire ovunque, che forse sostenerle vale la pena, insomma, mettere un riflettore e puntarlo costantemente intorno a questo problema. Quali sono state quelle più privilegiate in questi anni da questi finanziamenti da parte dei contribuenti? So che tu, Elio, sei molto interessato anche proprio per il tuo lavoro al quotidiano a questo ambito. Sì, diciamo che la preferenza è andata principalmente ad organizzazioni di volontariato, però non va dimenticato che un grosso contributo è andato anche alla ricerca scientifica e sanitaria, per cui per esempio organizzazioni come Telethon oppure organizzazioni come la ricerca sul cancro, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, che poi è in assoluto primatista nelle destinazioni dei contribuenti, si sono avvalse molto di questo strumento e grazie anche ai fondi dei cittadini hanno messo in cantiere nuovi progetti di ricerca che sono assolutamente fondamentali e che ci vedono in primo piano a livello mondiale proprio nella ricerca contro i tumori, contro le malattie genetiche. Elio, grazie per essere stato con noi, sono sicura che ne ritorneremo a parlare nei prossimi giorni, speriamo di aver aiutato un po' il terzo settore anche con questo piccolo richiamo da Radio 24. Adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, tra pochissimo. Promo 24. Essere precursori non significa solo anticipare il futuro, ma anche determinarlo, anche quando si tratta di scegliere un'auto. La nuova Audi A7 Sportback è la massima espressione dell'avanguardia tecnologica e di design. Il prestigio di una berlina, la sportività di una coupé, la funzionalità di una Avant si riuniscono in un concept che non ha precedenti. Le linee fluide del profilo, i gruppi ottici a LED e il frontale deciso sono il risultato di una visione di qualcosa di completamente nuovo. Tre motorizzazioni, tutte con trazione integrale 4 e cambio automatico S-Tronic. 2008 FS SI da 204 cavalli, 3000 TFSI da 300 cavalli, 3000 TDI da 245 cavalli. Lasciatevi ispirare dalla nuova Audi A7 Sportback presso gli showroom Audi. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta, sono le 17:48, praticamente tempo di raccontarvi la giornata di borsa. Livia Zancaner, Radio Cor, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, aiutami tu a difendermi qua perché mi sono lasciata sfuggire che oggi era la giornata delle tre streghe, invece questo è un appuntamento trimestrale, c'è già stato a fine settembre, per cui il prossimo è a fine dicembre, però insomma qua non avevo completamente torto perché qualche scadenza tecnica che oggi ha influito sulle contrattazioni c'è stata. Sì, infatti, allora, in effetti il giorno delle tre streghe sarà il prossimo 17 dicembre e oggi in realtà è il giorno delle scadenze tecniche su azioni e opzioni, quindi solo su azioni e opzioni e non anche sugli indici. Per cui in realtà non è propriamente il giorno delle tre streghe, comunque ci sono delle scadenze tecniche. Due streghette solamente. Allora, comunque queste scadenze tecniche hanno determinato una seduta volatile e oggi ovviamente ancora manca una completa schiarita sulla questione irlandese. Poi stamattina abbiamo anche avuto la decisione della Cina di imprimere una nuova stretta monetaria, di alzare le riserve obbligatorie sulle banche. Tutto questo oggi ha condizionato naturalmente le scelte e gli umori degli investitori. Milano chiude con un meno 0,5%. argomento, io andrei subito ai temi, Livia, perché c'è un ascoltatore che ci chiede molto preoccupato: ma quando finirà questo tracollo del Banco Popolare? Per la verità oggi giù tutte indistintamente le banche a Piazza Affari, per il Banco Popolare meno 3%. Sì, allora bisogna dire che oggi è stata una seduta difficile per tutto il comparto bancario a livello europeo, che ha ceduto l'1,7% appunto sui soliti timori relativi alla situazione finanziaria dei paesi a rischio, oltre appunto, come dicevi tu, della decisione della Cina. Per quanto riguarda il Banco Popolare ha perso oltre il 9% la pubblicazione dei conti il 12 novembre e quasi il 23% dall'annuncio dell'aumento di capitale da 2 miliardi il 25 ottobre. Secondo gli esperti, in realtà il Banco Popolare, per far fronte alle nuove regole di Basilea 3, dovrebbe affiancare al lancio di un aumento di capitale anche una serie di dismissioni di asset, quindi comunque continua il nervosismo intorno al titolo. Allora, Banco Popolare, abbiamo archiviato la pratica, meno 3%, come dicevamo, per la Popolare di Milano, meno 2%, Monte dei Paschi, meno 1,88%, anche questo istituto costantemente oggetto delle prese di posizione negative degli investitori, oggi Intesa anche andata giù, meno 1,81%, Unicredit, meno 1,73%, Mediolanum, meno 1,67%, Mediobanca, meno 1,53%, Unipol, meno 0,96%. Andiamo un po' dall'altra parte della classifica a migliorare l'umore: l'Ottomatica, meno 3%, la trimestrale non era piaciuta affatto agli investitori, Livia, e oggi invece che cosa ha fatto scattare gli acquisti? Sì, allora oggi il titolo ha beneficiato dei dati positivi sulla raccolta del mercato italiano dei giochi a ottobre. Il mercato infatti lo scorso mese ha mostrato un incremento su base annua di oltre il 19% a 5,6 miliardi di euro e un più 13% da inizio anno. Le notizie positive sono arrivate soprattutto dal Lotto, che ha registrato una raccolta in crescita del 9,5% e il Gratta e Vinci ha registrato un incremento del 7%, quindi queste notizie positive hanno contribuito a sostenere il titolo in una giornata negativa. Bene anche CIR, più 1,86 Buzzi, più 1,77, e oggi un sospiro di sollievo anche per Geox, perché anche per il gruppo guidato da Mario Moretti Polegato dalla presentazione trimestrale c'era stata un'emorragia continua, non mi ricordo esattamente quanto ha perso, ma probabilmente qualcosa a due cifre da quel momento, e anche oggi un minimo rimbalzo, quasi poca cosa, Livia, però insomma un pochino. Sì, infatti il titolo ha iniziato oggi a recuperare terreno dopo aver perso il 14,7% circa dall'ultima trimestrale che era stata pubblicata il 12 novembre. I conti infatti per Geox non erano stati particolarmente positivi, aveva mostrato un utile netto in calo a 72,4 milioni dagli 89,7 dell'anno precedente, ma soprattutto quello che aveva penalizzato il titolo era stato l'annuncio di una pressione dei margini nei primi sei mesi del 2011, quindi in realtà la pressione sul titolo dovrebbe continuare anche il prossimo anno. Finmeccanica più 1,61 segnala ancora migliori titoli di oggi, Talcementi più 1,38, STM più 1,28, anche Telecom oggi riuscita a rimbalzare dello 0,9%. Qualche notizia sul titolo, Livia? Sì, allora Telecom ha beneficiato di alcune indicazioni positive arrivate dagli esperti, in particolare da una banca d'affari francese, Société Générale, che consiglia di acquistare il titolo. I punti di forza della società TLC sono in particolare la presenza solo con il mobile nel mercato brasiliano e la possibilità di ridurre ulteriormente i costi. Un altro fattore positivo è il consolidamento dei conti Telecom Argentina nel quarto trimestre e l'allentamento della pressione normativa sul mercato nazionale, questo nonostante il titolo abbia comunque sottoperformato il settore ogni anno. Allora, tre titoli minori, raccontiamo qualche storia perché riusciamo a farlo anche abbastanza raramente. Oggi tra i minori è andata bene Piquadro, dopo i conti mi pare. Sì, Piquadro è salita di oltre il 2% all'indomani quindi della pubblicazione dei conti semestrali e in attesa di nuovi accordi per la società. Il gruppo ha mostrato conti buoni nei primi sei mesi, infatti il fatturato è cresciuto del 18% e l'utile netto del 36,3%. Inoltre l'amministratore delegato e presidente Marco Palmieri ha indicato che Piquadro sta cercando un'opportunità per produrre alto di gamma, quindi il mercato scommette su benissimo nuove mosse. Livia, grazie per essere stata con noi, buona serata, a presto. Ricordo che però il miglior titolo in assoluto a Milano è stato Cobra Automotive, ha guadagnato il 26%, il peggiore è stata Sopaf che ha perso il 9%, però ieri aveva guadagnato molto dopo l'annuncio di un accordo con le banche per la ristrutturazione del debito. Cambiamo radicalmente argomento, prima di salutarci, nelle aziende italiane mancano all'appello quasi 110.000 diplomati, tecnici, periti. Per rimediare a questa carenza 15 associazioni industriali delle province con maggiore vocazione meccanica e manifatturiera si sono riunite in un club dei 15, hanno adottato un istituto tecnico a testa per lavorare insieme e spingere i ragazzi a non considerare il liceo come unica scelta di istruzione. Piera Ceci ha intervistato Alberto Ribolla, coordinatore del club, che proprio in questi giorni si è riunito a Modena per fare il punto sui risultati dell'iniziativa. Generalmente ci sta una fatica veramente importante nel trovare in particolare le figure intermedie, al di là dell'operatore specializzato, che è comunque un grosso problema, ma anche le figure intermedie, quindi capi reparti, capi squadra, e i ragazzi degli anni 70, come li ho definiti io, che stanno sostanzialmente andando in pensione, facciamo grande fatica nel rimpiazzarli. Quindi i ragazzi vengono anche a fare delle esperienze di lavoro, esatto, presso di voi? Intanto come livello tecnico-scientifico, dove con rispetto uno dell'altro, nel senso che noi non entriamo minimamente nelle logiche che spettano alla docenza, però stabiliamo un punto di raccordo per far capire ai docenti stessi, quindi a chi gestisce questo tecnico, le esigenze dell'impresa da un lato. Vi ricordo che chi fosse interessato maggiormente a questo argomento, all'attività del club dei 15, domani ne riparlerà anche la nostra Piera Ceci, in obbligo di frequenza, in onda su Radio 24, naturalmente alle 12.45. Ci fermiamo, adesso c'è il GR, Focus Economia ritorna subito dopo. secondi, ancora buonasera da Deborah Rosciani, siamo ritornati insieme per la seconda parte di Focus Economia. Volevo tranquillizzare gli ascoltatori, Sebastiano Barisoni ritorna la prossima settimana, presumibilmente non lunedì ma a partire da martedì, ma insomma anche noi qualche volta dobbiamo staccare, prenderci delle giornate, non è che possiamo accumulare ferie su ferie e quindi qualche volta vi dovete accontentare anche dei sostituti ai timoni dei programmi. Oggi abbiamo parlato, come avete sentito, del via libera da parte della Camera alla legge di stabilità. Con le misure che sono state prese abbiamo dedicato un focus nella prima parte della trasmissione al cosiddetto terzo settore, al taglio dei fondi del 5 per 1000. Quest'anno sono stanziati 100 milioni al posto dei 400 che erano stati stanziati lo scorso anno e naturalmente tutto il settore si è sollevato pesantemente, tanto che potrebbe anche esserci una marcia indietro. Probabilmente di questo tema torneremo a parlare anche nei prossimi giorni. Ho parlato poi della seduta di borsa, non molto convincente. Oggi per la verità la giornata era andata anche peggio, poi i listini si sono risollevati sul finale. In questo momento anche Wall Street viaggia in territorio negativo con il Dow Jones in ribasso dello 0,14%, il Nasdaq dello 0,06%, Standard & Poor's meno 0,13%. Approfondiremo la giornata ma soprattutto la settimana sui mercati tra qualche minuto con un esperto, anche per tornare un po' a capire a che punto è la crisi irlandese, questo braccio di ferro molto duro che insiste tra il governo di Dublino e l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, per definire i contorni dell'aiuto che serve appunto alla vecchia tigre celtica. E poi oggi ad incupire un po' l'umore degli investitori è arrivata anche la decisione della Cina di imprimere una nuova stretta monetaria, ne parleremo tra qualche minuto. Questi sono stati un po' i temi della giornata, con anche le dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Americana Bernanke, che è intervenuto ad un convegno a Francoforte, ve lo faremo sentire fra qualche istante, dove ha difeso in maniera molto forte la sua recente manovra di riversare sul mercato altri 600 miliardi di dollari attraverso l'acquisto di titoli di Stato americani. Milano oggi è chiuso con un ribasso dello 0,5%, noi per il momento lasciamo la borsa ai mercati e parliamo di un'altra iniziativa. Parliamo di sostegno alle imprese. quel sostegno che è mancato negli ultimi 3 anni di crisi, perché come sapete le banche, ma neanche stiamo ancora a raccontarlo, hanno stretto i cordoni della borsa, non si prestavano più denaro fra di loro, figuriamoci se potevano appunto garantire il sostegno e i finanziamenti alle imprese. E però poi qualcosa ha cominciato a rimuoversi di nuovo. Unione degli industriali delle imprese di Roma e di Intesa San Paolo hanno sottoscritto oggi un accordo che fa seguito a quello del 2009 per assistere al meglio le piccole e medie imprese di Roma e provincia. A sostegno dello sviluppo delle PMI saranno destinati 600 milioni di euro, partendo dalle finalità e dai termini dell'aiuto che Intesa San Paolo fornisce anche alle piccole e medie imprese a livello nazionale. La nostra Alessandra Capozzi, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ha intervistato Marco Morelli, direttore generale vicario e responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Sentiamolo. Le finalità e gli impegni sono parte di una linea che la banca ha deciso di prendere ormai da tempo, che è quella di investire una grossissima parte del suo attivo e delle sue risorse sul sostegno del mondo delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo sul sistema italiano un'esposizione di circa 460 miliardi di euro su tutto il settore delle imprese. La metà quasi di questa cifra è impegnata sul settore delle piccole e medie imprese, quindi io credo che una banca, un'organizzazione come la nostra non possa non continuare a spingere e a progredire sul sostegno alla piccola e media impresa. Questa è un'iniziativa che è parte integrante ed importante di questa linea di comportamento e linea di azione, e noi continueremo a spingere sempre di più per fare in modo che poi ci siano evoluzioni successive. In particolare, appunto, nell'ambito di questo impegno nazionale, oggi avete siglato con l'Unione Industriali di Roma un accordo per destinare una cifra importante alle imprese di Roma e provincia. Quindi ci dice a chi è destinata e appunto qual è questo impegno forte? Nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 10 miliardi di euro, che è l'importo che noi mettiamo a disposizione su tutto il territorio nazionale per le piccole e medie imprese, 900 milioni vengono destinati a Lazio e 600 milioni dei 900 sono su Roma. Impegno quindi importantissimo, anche alla luce del fatto che se noi andiamo ad analizzare quelli che sono i trend di ripresa, i trend di uscita dalla situazione di crisi che speriamo toccato il picco nel 2009, Roma, soprattutto per quello che riguarda la crescita dell'export, è una delle prime 2 o 3 aree metropolitane su base nazionale. Quindi io credo che i numeri sono testimonianza dell'impegno che vogliamo prendere, ma oltre ai numeri poi c'è tutto un sottostante di sensibilizzazione di tutte le nostre risorse per provare ad andare un po' oltre tutta l'attività che è stata fatta fino adesso e quindi lavorare su quello che è l'impegno quantitativo, quindi 600 milioni su Roma, ma anche su un tipo di servizio che deve essere sempre più puntuale, tempestivo e deve sempre più far fronte a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. E questo era Marco Morelli, direttore generale vicario e responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, intervistato da Alessandra Capozzi. Adesso noi ci fermiamo perché sentiamo cosa sta succedendo sulle strade italiane, ma poi per l'ultimo quarto d'ora di Focus Economia ci dedicheremo un po' a quella che è stata la settimana abbastanza tormentata sui mercati finanziari internazionali a causa della crisi irlandese, a causa ancora delle oscillazioni sul mercato valutario, a causa anche della decisione di cui si parlava da tutta la settimana, che è stata concretizzata questa mattina, sulla nuova stretta monetaria della Cina. Approfondiremo questi argomenti con Carlo Benetti, responsabile della clientela istituzionale di Swiss Global Asset Management Italia SGR. Dottor Benetti, intanto buonasera. Buonasera a tutti gli amici all'ascolto. Grazie di essere con noi, le chiedo solo un minuto di pazienza, sentiamo un po' se c'è tranquillità a causa del maltempo sulle strade italiane, poi approfondiremo questi argomenti tra poco. Focus Economia. Allora, come vi dicevo, è stata una settimana abbastanza tormentata sui mercati finanziari internazionali perché l'Irlanda, e poi con un possibile effetto domino anche sul Portogallo, ha dovuto alzare le sue carte sulle sue difficoltà finanziarie, anche se irriducibile, ha resistito fino all'ultimo prima di formalizzare, poi non è che l'abbia neanche ancora fatto ufficialmente, questa richiesta di intervento tra Unione Europea e Fondo Monetario, appunto per poter sopportare questa difficoltà finanziaria che riguarda riguarda soprattutto il sistema bancario irlandese. Questo è stato il grande tema della settimana. Prima di andare ad approfondire un po' quello che è successo, ricordarlo di nuovo, ma soprattutto gettare uno sguardo in avanti su quello che potrebbe voler dire costringere l'Irlanda in qualche maniera a, non dico dichiarare un default, perché poi non sappiamo bene se finirà in questa maniera, ma in ogni caso a rivedere un po' le sue condizioni di debito, a rinegoziare il suo debito, vi faccio sentire quello che hanno detto quest'oggi, perché anche questo è stato un tema sul quale si è dibattuto, il numero uno della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, intervenendo ad una tavola rotonda a Francoforte insieme al suo chiamiamolo così, omonimo europeo Jean-Claude Trichet, numero uno della Banca Centrale Europea. A questa tavola rotonda c'era anche Dominique Strauss-Kahn, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. E allora sentiamoci alcune di queste dichiarazioni. Bernanke in primo luogo ha difeso in maniera molto forte la sua quantitative easing numero 2, cioè questa manovra che è stata varata pochi giorni fa dalla Banca Centrale Americana. Ha stampato nuovamente moneta per acquistare altri 600 miliardi di dollari di titoli di Stato e Bernanke ha detto l'impatto di questa manovra sarà molto significativo. Sentiamolo. L'economia globale oggi è al secondo anno di ripresa dopo la profonda recessione innescata dalla più devastante crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione. Nella fase più intensa della crisi, le economie avanzate e quelle emergenti hanno dovuto affrontare sfide comuni. Nel bel mezzo dell'urgenza, le risposte a livello di paesi è stata determinata, arrivando al momento giusto e vantaggiosa per tutti. La collaborazione è stata essenziale per evitare una contrazione economica ancora più grave e per porre le basi di una crescita solida e stabile. Tuttavia, nei mesi recenti si è perso il senso di perseguire obiettivi comuni. Sono emerse tensioni tra paesi e tra politiche monetarie, minacciando la possibilità di trovare soluzioni globali a problemi globali. La cooperazione internazionale è particolarmente difficile ora a causa della doppia velocità della ripresa economica globale. In particolare, le economie emergenti hanno avuto un recupero più elevato rispetto a quelle occidentali. Negli Stati Uniti la recessione è terminata ufficialmente a metà 2009, con una forte crescita del PIL sia nel quarto trimestre 2009 che nel primo del 2010. Tuttavia, buona parte di questa crescita è da imputare a fattori temporanei. Dal secondo trimestre dell'anno la crescita del PIL è più moderata e intorno al 2%. Il livello di disoccupazione si è bloccato per 18 mesi vicino al 10%, in netta crescita rispetto al 5% prima della crisi. E un alto livello di disoccupazione si ripercuote sulla capacità di spesa delle famiglie, contribuendo a una sfiducia economica che influisce sulle scelte e sulle spese. Inoltre, la decisione della Federal Reserve di acquistare ulteriori titoli di Stato è una misura che si è rivelata necessaria e che ha avuto successo nella stabilizzazione dell'economia e nel sostenere la ripresa. Dottor Benetti, allora questa settimana abbiamo visto l'Irlanda fare i conti con la propria situazione e d'altronde che gli stati sovrani europei fossero in condizioni di difficoltà, non è che ce lo raccontiamo da questa settimana ma ormai da mesi, perché dopo aver salvato banche a destra e manca in prima o poi insomma questa situazione doveva venire fuori, così come doveva venire fuori quella della Cina che cresce così tanto che in qualche maniera paradossalmente questo motore, questa locomotiva mondiale che sta confortando un po' tutti doveva addirittura essere frenata. Però insomma queste due tematiche questa settimana hanno avuto l'effetto di deprimere i corsi azionari, di tornare ad alimentare l'incertezza. Ma non era un copione già scritto secondo lei? Assolutamente sì, mi piace questo copione già scritto perché ci risiamo. Nulla di nuovo sotto il sole, per dirla con un linguaggio biblico, ma a 6 mesi di distanza dalla risoluzione della crisi del debito greco siamo esattamente a porci le stesse domande, anche se su un altro paese, in questo caso l'Irlanda, cioè di chi è la colpa, come facciamo a uscirne e quali saranno gli effetti poi sulla moneta comune. In questo caso direi che l'Irlanda sconta gli errori delle proprie banche o diciamo la leggerezza con la quale è stata seguita una politica di erogazione dei mutui che poi con la crisi immobiliare che ben conosciamo ha generato la crisi più grave, come è stato detto poco fa autorevolmente da Bernanke, dalla Grande Depressione. Il governo irlandese è entrato pesantemente, però questo bailout bancario ha spinto il deficit al 32% del PIL. E Ed ecco che c'è il timore dell'effetto o domino, come dice qualcuno, l'effetto virus che infetta altri paesi, perché poi noi sappiamo che la moneta corrente nei mercati finanziari non è il dollaro o l'euro, ma è la fiducia. Quindi anche se l'Irlanda vale l'1,8, quasi il 2% del PIL in Europa, ciò nonostante la fiducia viene messa severamente in discussione. Vale addirittura meno della Grecia, che vale il 2,5%. Pensavo un po' mi di pare più. Intorno al 2%. Può darsi che, sto andando a memoria, mi pare intorno al 2%, può darsi no, che vabbè, in ogni caso non sono poi dei pesi assolutamente rilevanti, però tanto per far capire come anche delle piccole economie nell'Eurozona rischiano di destabilizzare un po' se non governano bene le proprie finanze e tutto il resto. Questo, infatti, ci sono due differenze, semmai, tra Grecia e Irlanda. La Grecia chiedeva disperatamente aiuto e c'era una Germania riluttante. Ricordiamo che il pacchetto di sostegno venne deliberato solo all'indomani delle elezioni regionali in Germania, quindi la politica interna dei singoli stati ancora, diciamo, condiziona le scelte comunitarie, e questo direi è un dato politico importante ancora, come per quanto riguarda una visione strategica dell'Europa. Invece l'Irlanda non ha chiesto, dice no, ma noi facciamo da soli, fino a metà del 2011 abbiamo abbastanza quattrini, non state pure tranquilli. E invece è la Commissione europea che insiste, l'Europa che insiste affinché ci sia un piano di salvataggio proprio per contenere l'allargamento della sfiducia. Certo. E l'altra differenza è che l'Irlanda ha probabilmente dentro di sé meccanismi di crescita e di ripresa economica che forse la Grecia o i paesi in genere nel sud, nell'area meridionale dell'Europa, nell'area mediterranea, forse non abbiamo o non abbiamo nella stessa magnitudo, nella stessa misura. Intanto abbiamo appreso che questo piano di aiuti, Unione Europea Fondo Monetario per salvare le banche irlandesi, dovrebbe essere varato non prima della prossima settimana. Questo si è appreso qualche ora fa da fonti comunitarie e molto probabilmente, hanno spiegato queste stesse fonti, questo maxi prestito potrebbe aggirarsi intorno ai 100 miliardi di euro, quindi ogni volta la stima viene ampliata, sarà approvato non appena il Parlamento irlandese a sua volta avrà varato il programma di austerità da 15 miliardi di euro in 4 anni, col voto previsto appunto nei prossimi giorni. Le faccio sentire poi, per andare anche alla questione cinese di questi giorni, dottor Benetti, quanto ha detto il numero uno del fondo, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, sempre in questa tavola rotonda che ha più volte citato quest'oggi, sulla ripresa dell'economia globale, che ha detto è sbilanciata al punto tale che che diventa anche fragile. Sentiamolo. The support to growth is still something which absolutely necessary. Il sostegno alla crescita è qualcosa di cui c'è un'assoluta necessità, perché anche se alcune economie stanno crescendo notevolmente con un tasso del 4%, c'è comunque la possibilità di scendere al 2% o anche a livelli inferiori, e le conseguenze a livello globale sarebbero enormi. Quindi dobbiamo tenere bene a mente questo aspetto. Inoltre, siamo lontani dall'uscita dalla crisi. Allo stesso tempo, poi, e qui c'è la contraddizione, dobbiamo ristabilire la fiducia, e per fare questo, fondamentalmente, occorre affrontare la situazione dei debiti pubblici in molti paesi, specialmente in Europa, ma non solo. Beh, che la ripresa economica fosse sbilanciata lo avevamo capito più volte. Nel momento in cui le più importanti economie dell'Eurozona viaggiavano a tassi negativi, come è successo negli ultimi 2 anni, e la Cina e l'India viaggiano invece con un ritmo a doppia cifra, definirla sbilanciata questa ripresa economica mi sembrava addirittura un eufemismo. Ma dottor Benetti, le chiedo, la Banca Centrale Americana immette sul mercato 600 miliardi di dollari perché dice l'inflazione è talmente bassa che mi posso permettere ancora di ampliare i cordoni della borsa e, come dire, continuare in questa politica monetaria espansiva. Con questo sistema porta inflazione in Cina. La Cina deve contenere l'inflazione, stringe i tassi e il mercato si spaventa. Ma che circolo è questo? È il circolo del nuovo mondo nel quale ci troviamo, senza poter fare affidamento su quanto abbiamo letto nei manuali. Stiamo facendo esperienza di modelli di crescita mai visti in precedenza. Mettiamoci dal punto di vista degli americani o di Bernanke, anche nelle dichiarazioni che voi ci avete fatto ascoltare. Beh, la Fed negli Stati Uniti è l'unico sceriffo in città, nel senso che è l'unica agenzia in grado di contenere la stabilità, cioè di mantenere, garantire stabilità dei prezzi, ma nello stesso tempo favorire la ripresa economica. Un tasso di disoccupazione del 9,6, quasi il 10% negli Stati Uniti, è un tasso di disoccupazione elevatissimo se consideriamo la debolezza degli ammortizzatori sociali di quel sistema. E perché è l'unico sceriffo in città? Perché nel frattempo Obama, la presidenza Obama, sta attraversando un momento di opacità. Anche le elezioni di metà mandato, di inizio novembre, hanno modificato gli equilibri di maggioranza. Per cui dal punto di vista della Fed, di Bernanke, c'è un problema di deflazione, il timore di deflazione, c'è una minore preoccupazione dell'inflazione. Dottor Benetti, le devo chiedere di stringere perché devo salutarla. Ha completato il suo ragionamento, poi magari la rinvito volentieri un'altra volta. Il tempo ci è scivolato di mano oggi. Assolutamente, siete sempre benvenuti. Grazie mille. Devo salutarla perché subito pronto in postazione Giuseppe Cruciani, che prenderà il mio microfono appena chiusa Focus Economia. Con che argomenti, Giuseppe, stasera? Beh, come al solito, tutte le novità della politica, tra cui la partecipazione annunciata di Maroni alla puntata, così si è chiusa la querela con Saviano, alla puntata di lunedì di Vieni via con me. Benissimo, e allora ci darà anche qualche anticipazione. Addirittura sto chiudendo con 15 secondi di anticipo Paolo Corleoni, quindi sarei orgoglioso di me. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto di Focus Economia, anche se ci sono stata io. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione. Io torno regolarmente a Salvadanaio lunedì prossimo. Buon fine settimana a tutti. Radio 24. La passione si sente.